e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Buongiorno a tutti, bentrovati a Cuore Denari, che quest'oggi mi vede in conduzione da sola. La Nicoletta si è presa una giornata, ma naturalmente la salutiamo, la aspettiamo qui al suo rientro lunedì. Lunedì la coppia si riaccoppia. Per quello che riguarda però questa puntata in solitaria, naturalmente non ci faremo mancare tutti gli argomenti a cui siete assolutamente straaffezionati, quelli che vi piacciono di più di Cuore e Denari. Per la parte di Denari, dalle 11 alle 12 ci occuperemo proprio del vostro argomento preferito, lo testimoniamo sempre quando ce ne occupiamo nel nostro programma. Parleremo di casa, perché da parte vostra non è un tema di attualità stretta perché non ci sono notizie particolari, ma è un tema sempre di attualità, a giudicare dalle tante richieste di delucidazioni che ci mandate al nostro indirizzo di posta cuoredenari@radio24.it. Ci chiedete sempre tanti chiarimenti e per questo interpelliamo il mondo dei notai sui vari passaggi che attengono alla compravendita della casa, dal preliminare, dalla presentazione delle offerte appunto per acquistare una casa all'atto finale, al rogito che formalizza appunto l'avvenuta compravendita. Ci sono naturalmente tutta una serie di adempimenti da svolgere. Allora questa mattina vi riproponiamo proprio l'ABC della compravendita della casa, quindi se siete in procinto di fare questo passaggio fondamentale per la vostra vita economica, cominciate subito a prenotare i vostri interventi all'800 24 0024, perché tra poco ci raggiunge in studio Arrigo Roveda, presidente del Consiglio Notarile di Milano, e ci darà tutti i suggerimenti per poter portare a casa la casa naturalmente in serenità senza complicazioni. Per quello che riguarda invece i temi di cuore, vi propongo due argomenti di cuore. Il primo ci porterà in Puglia, come primo tema di cuore, con il primo andremo in Puglia per una bella iniziativa in perfetto stile Cuore e Denari. Nasce infatti la banca delle visite, pensate, è una piattaforma online con cui donare una visita medica sospesa a chi ne ha bisogno, un'iniziativa davvero bella, bellissima, che ci piace stamattina in qualche maniera tenere a battesimo. È un'idea che prende spunto dal concetto, forse ne avrete sentito parlare, di caffè sospeso, e noi proprio al caffè dedicheremo il secondo approfondimento di oggi. Se anche per voi la tazzulella è un vero e proprio rito quotidiano, chiamateci e fate un'ode al caffè. Insomma, anche per questi argomenti potete intervenire all'800 24 0024. Peraltro per il caffè c'è anche una notizia di Denari, perché quello quotato sui mercati internazionali sta perdendo più del 30% del suo valore. Allora molti che sono esperti di commodities dicono: ma sarà giunto il momento di comprare, non è per noi, forse è meglio gustarci quello della moca o quello del bar. Ma intanto partiamo. Funziona esattamente come il caffè sospeso nato a Napoli. Chiunque voglia può fare anche una piccolissima donazione in favore del prossimo, solo che al posto di offrire un buon caffè si regala salute. Donare è semplice, veloce e sicuro. E allora cercheremo di capire come funziona questa donazione della visita. Ve lo abbiamo anticipato aprendo la puntata poco fa. Parliamo della banca delle visite. È un'intuizione che nasce sulla base del concetto del caffè sospeso. In questo caso al posto del caffè si rendono disponibili invece visite e prestazioni sanitarie per chi ne ha più bisogno. Il progetto si sviluppa sull'idea di un gruppo di giovani che hanno fondato Scegliere Salute. È una startup pugliese del gruppo Health Italia, che in collaborazione con la fondazione Basis Ente No Profit si impegna nella divulgazione dei principi mutualistici e della solidarietà sociale. Noi abbiamo il piacere di avere in linea con noi questa mattina Giuseppe Lorusso, cofondatore della startup Scegliere Salute. Buongiorno, benvenuto. Ci considera un po' delle madrine di questa vostra iniziativa. Giuseppe, buongiorno intanto, grazie. Buongiorno. Allora, mi sono autocandidata a fare da madrina a questo battesimo. Lei tra l'altro so che è laureato in economia, no? Ma come mai ha deciso di mettere a frutto le sue competenze nel campo della sanità? Vero, sono laureato in economia, ma sono anche specializzato in economia sanitaria. La mia passione per le tematiche sanitarie, quindi viene da lontano, ed è ormai quasi 10 anni che lavoro in campo. Senta sanitario. Giuseppe, per caso sta utilizzando un viva voce o un auricolare? Perché in questo caso le chiedo di avvicinare la bocca alla cornetta del telefono. Ecco. Niente, adesso va meglio? Adesso va un po' meglio, grazie. Scusate. Ottimo. Dicevo, sono ormai 10 anni che tratto di sanità. Le mie esperienze lavorative e professionali in campo sanitario ovviamente mi hanno aiutato a sviluppare l'idea della banca delle visite. Come giustamente diceva lei prima, è il concetto di caffè sospeso applicato alla sanità. Mm-hmm. Allora, voi siete all'inizio, e infatti stiamo parlando proprio di una startup che sta partendo adesso, con anche una richiesta di disponibilità finanziaria per la quale avete già raggiunto un discreto budget, no? Sì, abbiamo raccolto circa 10.000 euro fino ad oggi. Siamo partiti da 20 giorni e abbiamo raccolto circa 10.000 euro. Allora, andiamo a come funziona questa vostra iniziativa, che naturalmente deve essere ben spiegata a tutta la platea dei nostri ascoltatori, che sono già curiosi, a giudicare appunto dalle prime indicazioni che ci arrivano al nostro SMS, ma anche su WhatsApp. Allora, andiamo alle donazioni che possono essere fatte da privati cittadini, ma anche aziende. Possono essere donazioni di denaro libere, ma si può anche acquistare una prestazione sanitaria. Io posso acquistare, Lurusso, una visita da un dentista e magari appunto farla trovare pagata ad una persona che ha necessità e che non se la può permettere. Il concetto è proprio questo. La banca delle visite è un progetto di solidarietà reale. Da un lato abbiamo cittadini e imprese che acquistano prestazioni sanitarie o effettuano donazioni di denaro libere. Dall'altro lato abbiamo i cittadini in difficoltà economica che tramite un modulo di registrazione ci richiedono una prestazione, richiedono l'erogazione di una prestazione. Al centro c'è appunto la banca delle visite che fa da intermediario tra chi dona una prestazione e chi la richiede. Il cittadino che ne ha bisogno come arriva a voi? Semplicemente collegandosi al sito www.scegliersalute.it, nella sezione dedicata alla banca delle visite c'è un form che deve essere compilato, devono essere accettate delle condizioni a tutela della privacy, e l'unica cosa che noi chiediamo al cittadino è di fare un'autodichiarazione di indigenza, diciamo così. Esatto, e perché non è che lì bisogna fare poi furbetti e approfittare dell'altruismo degli altri. Naturalmente è chiaro che il principio è che si dia una mano alle persone davvero indigenti, e sappiamo bene quanto ce lo testimoniano tanti osservatori: molti italiani debbano rinunciare a delle prestazioni sanitarie, a delle visite specialistiche, proprio per problemi economici. Per cui anche per questo motivo, insomma, facciamo in modo che eticamente parlando questa piattaforma funzioni al meglio. Per cui un cittadino che ne ha bisogno si registra sulla piattaforma, accetta tutte le clausole relative alla normativa sulla privacy e va a cercare la prestazione che gli serve, giusto? Esattamente. E noi mettiamo in contatto il cittadino che richiede la prestazione con il centro o il medico che erogherà la prestazione. Al centro di questo processo, per garantire la massima trasparenza, c'è la Fondazione Basis, che è un ente no profit, ed è la fondazione è il soggetto presso cui confluiscono le donazioni in denaro. Certo. Il conto corrente è un conto corrente dedicato della Fondazione Basis, e su questo conto corrente qui confluiscono le donazioni in denaro. Naturalmente. Quindi, questa iniziativa avete dovuto farla conoscere anche al personale medico, che può rendersi disponibile, no, per queste assolutamente persone. Assolutamente sì. Un medico può offrirsi come volontario, quindi donare delle prestazioni gratuitamente in favore di cittadini che lo richiedono nel tempo. Certo. Quante adesioni avete avuto fino a questo momento? Insomma, che cosa potete raccontarci relativamente alla partenza della vostra piattaforma, Giuseppe? Sì, la piattaforma è attiva da circa 20 giorni. Come detto, abbiamo raccolto 10.000 euro, abbiamo erogato circa una quindicina di prestazioni e abbiamo attualmente in sospeso 5 richieste che stiamo valutando, e stiamo cercando di trovare il centro, il medico capace di erogare quel tipo di prestazioni richieste. Allora, la startup è pugliese, ma naturalmente la banca delle visite è disponibile per tutta Italia. Assolutamente sì. E nelle nostre idee, quello che abbiamo appreso sentendo un po' il rumore della gente, di gente che lavora nel settore della solidarietà, la nostra idea è quella di creare delle sedi regionali della banca, cioè avremo una banca centrale e poi delle banche regionali, in maniera tale da avere un contatto diretto con quelle che sono le realtà regionali. Questa è la nostra idea. Benissimo, quindi insomma l'obiettivo è questo, intanto farne una realtà nazionale con delle caratteristiche anche regionali, avere dei punti di riferimento regionali. Insomma, come possiamo aiutarvi, Giuseppe, oltre ad aver parlato di voi, siccome questa iniziativa ci piace, andiamola intanto a guardare, andiamo a documentarci in modo tale che possiamo magari anche suggerirla ad una persona che è vicina a noi, che ha delle difficoltà e che magari non accetta di farsi aiutare in altra maniera, ma questo può essere anche un modo così molto rispettoso della privacy altrui per aiutare. Esattamente, il vostro aiuto è fondamentale. Noi chiediamo a tutti quanti i media di parlare della nostra iniziativa in maniera tale da dare massima visibilità al progetto, che è un progetto che per scelte di salute non provoca nessun tipo di vantaggio dal punto di vista economico, perché noi da questa iniziativa qui non guadagniamo assolutamente nulla. Le provvigioni che noi chiediamo di solito ai centri e ai medici in questo caso qua sono assolutamente annullate. Benissimo, si chiama quindi Scegliere Salute, dove possiamo andarvi sì. a cercare. Benissimo. Grazie a Giuseppe Lorusso per essere stato grazie con noi, per averci raccontato il principio della visita sospesa. Noi andiamo a sentire il traffico, poi andremo a un altro tema che ci piace tanto e anche l'ora giusta, il caffè. Faircam Transport, il vostro partner per trasporti a carico completo o parziale. Faircam.com vi presenta... Cuore e denari. 7.000 caffè, li ho già presi perché sono stanco di stare al volante, vorrei arrivare. Ecco, magari prenderne un po' più della norma, sì, su 7.000 diamoci una regolata, poi bisogna vedere anche in che arco di tempo. Siamo tornati insieme, lo abbiamo tirato in ballo più volte, questa mattina parliamo del caffè che sia sospeso o meno, caldo o freddo, una bevanda che nell'immaginario collettivo ci tira su, ci piace tanto, piace tantissimo a noi italiani. Questa mattina ne parliamo con la dottoressa Michela Carola Speciani, medico chirurgo, esperto in nutrizione applicata. Buongiorno e benvenuta. Quanti ne presi già questa mattina? Buongiorno Deborah, oggi sono ancora un pochino indietro ma cercherò di rifarmi durante il resto della giornata. Anche perché è caldo, magari ecco l'invito è quello di la temperatura, diciamo, ci invita magari a gustare qualcosa di un po' più fresco. Comunque più la temperatura sale, più la nostra energia scende, è una situazione con cui tra l'altro dovremmo fare i conti ancora a lungo. Secondo le previsioni sarebbe in arrivo questa nuova incredibile ondata di caldo con l'anticiclone africano ribattezzato Caronte. Leggevo stamattina dai giornali che in molte città, vabbè, a parte tutto il tema della siccità, magari nei prossimi giorni ci toccherà anche affrontare la questione dei prezzi alle stelle per la frutta e la verdura. Detto questo, in molte città addirittura i sindaci stanno proibendo di annaffiare fiori e piante, di lavare le auto per conservare quanto più possibile l'acqua cittadina. Detto questo, tornando a questa nuova ondata di calore che potrebbe essere la più intensa degli ultimi 15 anni, con la colonnina di Mercurio fino a 37-38 gradi, come con queste temperature, dottoressa Speciani, dobbiamo consumare il caffè? Meglio freddo a ecco, questo punto. È così? Attenzione, l'unica cosa importante da controllare è il fatto che la bevanda, sia che sia calda sia che sia fredda, non contenga zucchero. Lo zucchero e il dolcificante sono degli elementi che rischiano di avere un'azione più negativa, molto più negativa che salutare, anche in una bevanda positiva come quella che è il caffè. Certo, freddo o caldo, appunto, per chi comunque, anche a dispetto delle temperature tropicali, appunto, e africane di questi giorni, in ogni caso lo vuol sempre consumare nella sua classicità, quindi caldo, qual è il limite per avere dal caffè solo il meglio, dottoressa Speciani? Di per sé l'unico limite è quello riferito a cosa ci si mette dentro nel caffè, e in questo caso l'abbiamo detto, lo zucchero e il dolcificante sono assolutamente da evitare. Il caffè in quanto tale ha delle azioni estremamente positive, particolarmente celebri sono quelle sulla salute generale del fegato. Studi recenti hanno evidenziato come chi beve più caffè, e si parla di 3 o più tazzine al giorno, ha una probabilità estremamente minore di andare incontro a fibrosi del fegato, per esempio. Di per sé l'unico limite che si dà come definizione è quello delle 3 tazzine da non superare negli adolescenti. E quindi, ecco, questo è il limite. Esatto, è un tema interessante questo, perché in questi giorni molti dei nostri ragazzi sono impegnati con gli esami, magari c'è chi preferisce dedicarsi allo studio proprio di notte e per stare sveglio vai di tazzine di caffè magari con la mamma che li porta anche un po' lì a questo consumo, insomma. Però lei suggerisce in ogni caso di mantenere sotto controllo il numero delle tazzine consumate, il qualche sgarro. L'adolescente per alcuni è un limite da tenere in considerazione. Di per sé appunto va considerata anche l'età dell'adolescente, se si parla di un adolescente che va verso l'età adulta, diciamo che alcuni parlano dei 400 mg di caffeina al giorno, che può corrispondere anche a più. Certo. Più di tre tazze di caffè. Allora, intanto, sì, infatti, io dico magari stamattina l'ho preso solamente nel latte, ma prendo una moca bella consistente, per cui chissà quante ce ne sono. Fai benissimo, Ma sì, anche perché, guarda, alzandomi molto presto, devo dire che tra le 8 e le 9 già l'effetto è strasvanito, non sento più nulla, anche se dovessi temere quello. Ecco, intanto, una cosa interessante da dire, visto che hai toccato il tema, è il fatto, soprattutto per i nostri studenti, è il fatto che più caffè beviamo, meno ne sentiamo l'effetto. Per cui in questo senso è anche utile il fatto di tenerci il caffè lì pronto da utilizzare per quando ne abbiamo veramente bisogno. Quindi ci si assuefa un po' anche al consumo del caffè. Purtroppo ieri sera Perché purtroppo? Purtroppo sì. Perché nel si senso rischia che... di andare poi ad abusarne? Esatto, il problema più che altro non è l'abuso, ma il fatto che ci perdiamo poi l'effetto della caffeina, questo effetto energizzante della caffeina, per cui nel momento in cui ho bisogno di avere uno sprint in più, mi bevo anche la mia tazza di caffè, spero che me lo dia, e in realtà sono assuefatto e quella tazza di caffè non mi basta più. Avete ancora qualche istante di tempo, lo dico ai nostri ascoltatori che ci vogliono chiamare o scrivere al 349-238-6666, insomma, quante tazzine al giorno, qual è il vostro limite massimo oltre il quale non potete andare, perché sennò si sta svegli tutta la notte. Proprio ieri sera a cena con degli amici, dottoressa Speciani, avevo una conversazione su questo argomento, un mio amico ne prende tranquillamente anche dalle 5 del pomeriggio in avanti, ecco, io su quello invece sono un po' più brava, ad un certo punto dal pomeriggio in avanti evito, perché poi un po' l'effetto notturno lo sento. Detto questo, senta, prima di salutarci invece, l'idratazione importante in questo periodo in cui veramente le temperature mettono a dura prova il nostro fisico, acqua certamente, lasciando per un attimo da parte il caffè, ci sono altre bevande che ci possono venire in aiuto, so che lei dirà l'importante che non siano zuccherate, ma cosa ci suggerisce in questo momento? Allora, la cosa fantastica che ti dico oggi è che il caffè va benissimo. Ho guardato ieri, sono andata a farmi una ricerca proprio in questo senso e ho trovato che il caffè riesce a garantire in alcune miscele particolari anche l'8% del fabbisogno di potassio giornaliero. E uno dei problemi essenziali nel momento in cui c'è il caldo e c'è una sudorazione anche abbondante sono le perdite anche minerali che ci sono con il sudore, e in particolare il potassio è il primo di questi minerali che andiamo a perdere, seguito dal magnesio e dal calcio. Se c'è una persona che ci scrive, Michela, scusa, mio marito dice che gli causa attacchi cardiaci. Adesso qua non parliamo di idratazione, ma ci sono persone che hanno... Ci sono delle persone che hanno una sensibilità particolare al caffè, e in questo caso la caffeina è assolutamente da controllare. Esatto. Sono dei casi particolari, certo. Se lo bevo dopo le 14 non dormo più e sono napoletana, ci scrive un'ascoltatrice. Vabbè, dovrà trovare delle alternative. Faremo, Michela, una puntata sul decaffeinato per capire se è una valida alternativa. Devo interrompere, c'è il giornale radio, ma torniamo tra pochissimo. Grazie a Michela Speciani. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Cuore e denari. Another summer day has come and gone away from Paris and Rome, but I wanna go home. A Wanna Go Home, dice Michael Bublé, ma molti di noi invece in questo momento magari accarezzano l'idea di comprare la casa dei propri sogni. È un tema che vi piace sempre, allora cogliendo anche tanti dei vostri suggerimenti che ci arrivano alla mail di Cuore Denari, cuoredenari@radio24.it, questa mattina, in questo venerdì caliente, abbiamo pensato di rifare un punto della situazione su tutti i passaggi per poter fare un acquisto sereno, consapevole, meditato e naturalmente che si concluda con successo. Il mercato immobiliare torna ad essere abbastanza vivace rispetto agli ultimi anni di crisi profonda, determinata soprattutto dalla crisi finanziaria, dalle banche che erogavano con il contagocce i mutui. In realtà da almeno un anno e mezzo a questa parte le banche hanno ripreso ad erogare, questo ha stimolato anche il mercato immobiliare. I prezzi peraltro continuano ad aggiustarsi in molte città d'Italia, insomma ci sono tutte le condizioni favorevoli per poter fare adesso questa operazione, per diventare proprietari della casa dei nostri sogni. C'è anche un altro elemento positivo, ci metto, poi vedremo se il nostro ospite è d'accordo. La fiscalità sembra stabile al momento, il governo non ipotizza di reintervenire di nuovo sulla tassazione sulla casa, ma non è detto, insomma la tentazione c'è sempre. Detto questo, nella scheda di apertura con la quale appunto inauguriamo la trasmissione di questa mattina, vi faccio un punto della situazione su quello che ci racconta in questo momento il mercato immobiliare. Aumenta il volume per il ballo del mattone. La tendenza in crescita delle compravendite immobiliari in Italia si conferma infatti anche nel primo trimestre del 2017, stando ai dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate. Le abitazioni che hanno cambiato proprietario sono state 122.000, quasi 10.000 in più rispetto allo stesso periodo del 2016, con una crescita dell'8,6%. Aumenta il volume delle compravendite e aumenta anche del 9,8% la superficie media delle abitazioni coinvolte, attestandosi a 105 metri quadrati. Tra le aree geografiche è ancora poco movimentato il sud, che si ferma a un più 5,1 rispetto all'8% del centro e al 10% del nord. A guidare la crescita sono però le isole, con un più 11,9%. Volendo però individuare l'ambito con la maggiore vitalità, bisogna spostarsi di poco dalle abitazioni, incontrando un dato che molti potrebbero trovare curioso. Il primo posto per numero di transazioni se lo aggiudicano infatti cantine e soffitte, con un onorevole più 17%. E la cantina buia dove noi... Stavo proprio meditando sul perché avesse scelto Lucio Battisti, Marco Lombardo, naturalmente, per la questione della cantina. Arrigo Roveda, presidente del Consiglio Notarile di Milano, benvenuto, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. La vera The Voice questa mattina, a me chiamano The Voice, ma stamattina devo dire che il nostro notaio Roveda, insomma una voce molto molto importante che ci appunto suggella ancora meglio l'importanza del tema di questa mattina. Lei sta stipulando più rogiti del solito, quindi anche lei nota questo fermento del mercato immobiliare dal punto di vista, insomma, anche dal punto di vista degli atti firmati davanti ai notai? È un osservatorio interessante questo. Sono abituato a non fare le statistiche su di me. Comunque sì, ne sto facendo più rispetto agli ultimi 4-5 anni, non ancora quanti ne facevo nel 2006-2007. Certo. Esatto. Vabbè, insomma, l'importante è che si concludano tutti con successo, serenamente, senza tante problematicità tra la fase della scelta dell'immobile e la conclusione dell'atto appunto di compravendita, perché lì le sorprese sono sempre dietro l'angolo. Per cui chiedo anche a voi, raccontateci a che punto siete. Intanto, avete già scelto la casa dei vostri sogni? Avete già fatto l'offerta? Siete già sicuri che la banca vi conceda il mutuo? Lo sapete che io sono ossessionata da questo passaggio. Prima di fare qualsiasi tipo di offerta, assicuratevi, se avete bisogno del mutuo, che la banca vi eroghi la cifra della quale avete bisogno, perché sennò poi si complica tutto. Notaio, faccio bene a dare questo suggerimento? Prima ancora di scegliere la casa, esatto, bisogna affidarsi a un professionista. Io dico, bisogna scegliere il notaio prima della casa, perché è colui che ti può dire che casa ti puoi permettere. Esatto. Perché il prezzo della casa è solo uno degli elementi di costo da valutare. Esatto, perché poi tanto ci dobbiamo mettere qualche cosina in più, c'è sempre qualche piccolo punto che va aggiustato, ristrutturato, e non abbiamo mai neanche in testa ben chiaro il passaggio di tutte le tasse che vanno versate nell'atto appunto della compravendita, le persone continuano ancora ad essere convinte del fatto che il rogito e tutta la cifra che si sborsa all'atto del rogito sia tutta parcella del notaio, e invece notaio ci sono delle, c'è una fiscalità molto chiara da conoscere. Detto questo, intanto invito gli ascoltatori a prenotare gli interventi all'800 24 00 24, oppure scriveteci se volete al 349 238 6666. Riceviamo i vostri messaggi, li riceviamo su WhatsApp, e se avete anche voglia di mandarci la fotografia della casa che avete scelto ma ancora non avete avuto il coraggio di fare l'offerta, per così mettere un primo piede appunto all'interno di questa abitazione, magari così possiamo provare appunto a darvi una mano per capire come fare. Stavo guardando intanto già un messaggio di un ascoltatore che scrive: devo rivolgermi ad un notaio per capire che cosa posso permettermi? Sicuramente un 1000 euro in meno dopo che ho visto il notaio per un consulto. Vedi il pregiudizio che ancora ruota attorno alla vostra professionalità, notaio Roveda? No, la prima chiacchierata non c'è quasi mai nessun notaio, anzi posso dire che per la chiacchierata esplorativa non c'è nessun costo. Certo che se io voglio comprare una casa da 200.000 euro, devo sapere che quella casa da 200.000 euro mi costerà 210-215 tra agenzie immobiliari, imposte, prima casa, non prima casa, ho diritto a un credito di imposta o no. E il fatto che poi le tasse non siano pagate sul prezzo ma sulla rendita catastale, esatto, li rende difficilmente quantificabili se uno non è esperto. E andiamo subito allora a capire dove si trova questo dato della rendita catastale, che è il primo elemento fondamentale per capire intanto all'atto del rogito quanto pagherò, ma anche se in realtà poi un anticipo, se verso una piccola caparra a titolo di compromesso, qualche cosa si deve già versare anche in quella fase, in quel momento lì. Notaio, la rendita catastale che cos'è e dove la trovo? La rendita catastale è un valore che è, purtroppo devo dire, abbastanza slegato dal valore reale della casa. Lo si trova in catasto ed è l'espressione di una serie di moltiplicatori che parte dalla categoria abitativa, dalla classe, cioè la tipologia di questo immobile, dai metri quadri o dai vani, ed esprime un valore che è la base imponibile. E poi se sarà prima casa il privato paga 2%, se non sarà prima casa è il 9%, tra l'altro su moltiplicatori diversi, quindi è un'operazione abbastanza complessa. Certo, però lei dice la rendita catastale la trovo al catasto, in realtà se io ho già un'idea dell'immobile che comprerò da un rogito precedente, da un atto di compravendita precedente sempre relativo a quell'immobile, è già indicata questa... A meno che tra rogito e oggi non siano intervenute modifiche dei lavori, quindi è sempre opportuno avere la rendita catastale aggiornata, data dal catasto. Beh, io ho ristrutturato casa e il mio architetto me l'ha fatto fare al volo questo aggiustamento, questo aggiornamento. Però non sempre si fa, lei dice. Quindi no, si fa sempre. Dopo la fine con la fine dei lavori va presentato anche l'aggiornamento catastale. Allora, un altro tema, un altro ascoltatore dice, ma forse non ci siamo spiegati bene, e allora mi pare di capire che questo passaggio vada precisato. Dice: nessuna banca stipula un mutuo prima che sia stato individuato l'immobile, e in genere vogliono il compromesso già firmato. No, allora qua non ci siamo proprio capiti. Non abbiamo detto che va stipulato il mutuo prima di aver individuato una casa. Si va in banca per chiedere che, in base alle mie condizioni reddituali, che mutuo siete in grado di erogarmi, che mutuo mi posso permettere, notaio, dico bene? Esattamente così, due sono gli elementi da tenere in considerazione. Uno, il valore della casa, perché la banca non finanzia mai sopra una certa percentuale del valore della casa. 70%, esatto, diciamo. Se in passato hanno anche fatto questo, però diciamo adesso speriamo che non lo facciano più, perché poi... Ma se vogliamo essere prudenti, attestiamoci al 70% e poi chiediamo sulla base della nostra busta paga, del nostro reddito, quanto la banca è disposta a concederci, quindi il valore della casa e il reddito. Esatto, e poi insomma valutiamo anche il raggio temporale per il quale vogliamo indebitarci, no? Perché magari uno è disposto a fare un sacrificio mensile un po' più alto, ma liberarsi del mutuo nel giro di un tot di anni, qualcuno invece vuole rendersi questo impegno molto leggero e diluire la restituzione su un numero di anni un po' più lungo. E se si è un po' in là con l'età, le banche comunque non amano finanziare per un lungo periodo, quindi anche la nostra età incide sul tipo di mutuo. Speriamo quindi di aver chiarito questo passaggio. Intanto 800 24 00 24 per scriverci. Io, a prescindere dalla scaletta che ci eravamo preparati, notaio Rovedo, in realtà mi piace sempre molto animare il programma, come mi succede con Nicoletta, con le testimonianze dirette degli ascoltatori, che così ci possono dare appunto un buon motivo per oltre a rispondere ai casi individuali, ma anche poi per rappresentare delle situazioni generali. Sono Giacomo da Vicenza, sono appena stato in banca per chiedere le prime informazioni. Il costo della casa è una grande banca italiana, quella che cita il costo della casa è sui 110-120 mila euro. Mi hanno detto che le spese di notaio e agenzia non possono essere inserite nel mutuo e che non si possono inserire altre garanzie oltre all'ipoteca dell'immobile da acquistare. Avendo io una piccola casa di proprietà, volevo usarla appunto a garanzia. Spese di notaio e agenzia non possono essere inserite nel mutuo, ma adesso, a parte Giacomo il no della banca, direi che anche noi glielo suggeriamo, insomma finanziamo quantomeno possibile. Se lui voleva già inserire anche queste spese, significa che voleva un mutuo al 100% abbondante dell'abitazione. Notaio, che idea si è fatto di questo caso? Mi sono fatto l'idea di un mutuatario che vorrebbe un finanziamento percentuale sul costo complessivo dell'operazione. Per la banca invece è una percentuale della garanzia, e la garanzia è data dal bene immobile, non dei costi accessori. E quindi direi di valutare appunto questa operazione con attenzione e con prudenza. Le garanzie, oltre all'ipoteca dell'immobile appunto da acquistare, ho una piccola casa di proprietà, posso usare la garanzia? Sì, però è una garanzia sul valore, non è una garanzia sul reddito. Evidentemente la banca è anche preoccupata di questo fattore. A volte, se il reddito non è sufficiente, vengono chieste garanzie fideiussorie da parte di genitori, nonni, altri parenti, che possono con il loro reddito rassicurare la banca sulla capacità di rimborso. Allora andiamo all'ABC della compravendita. Per adesso lasciamo da parte per qualche secondo appunto i casi singoli degli ascoltatori. Ho individuato la casa dei miei sogni, notaio Roveda. Ammettiamo appunto che la banca abbia deciso di sostenere questo mio sforzo e abbia le condizioni reddituali appunto per imbarcarmi in questa operazione, appunto per prendere il mutuo. Voglio capire il notaio che cosa può dirmi a proposito dell'abitazione che ho scelto e se sia in regola naturalmente con tutto quello con cui deve essere in regola. Con che cosa deve essere in regola un'abitazione? Oltre che può, deve verificare che l'immobile non abbia ipoteche, pignoramenti, sequestri, che non sia gravato da passività, o meglio, magari è anche gravato, ma che le passività siano in qualche modo gestibili col prezzo della compravendita. Deve verificare che l'immobile sia in regola da un punto di vista urbanistico, che non sia abusivo per essere, o che non abbia subito una trasformazione, caso molto spesso dei sottotetti o dei loft, che sia stato un po' situazioni magari tipiche soprattutto delle grandi città dove si prova ad affittare e a vendere di tutto naturalmente, come Milano e Roma, ecco. Sì, direi che è più tipico delle grandi città, ma sono comunque numerosi. Quindi anche la verifica urbanistica deve verificare che i dati catastali siano a posto, che ci sia una conformità catastale, ci deve aiutare in questo senso. E poi soprattutto deve guidarci, e qui si passa dal deve al può, ma fa parte di quello che abbiamo diritto a chiedere al notaio, a trovare la soluzione fiscalmente migliore, certo, a trovare la situazione di intestazione all'interno della famiglia che sia la più rassicurante, e anche, ahimè, facendo tutti i debiti scongiuri del caso, perché gli italiani non amano parlare di questo argomento, anche a capire se mi dovesse succedere qualcosa a chi va questo bene, certo, perché ogni tanto ci sono sorprese. I coniugi senza figli, per esempio, raramente tengono presente che se non fanno un testamento e manca uno di loro, i genitori e i fratelli subentrano e concorrono con il coniuge. Eh certo, quando si è lì a coronare, come dicevo prima, il sogno della propria vita, quello di comprare appunto la casa che si è sempre desiderato, è ovvio che questa è l'ultima considerazione che si fa. Però insomma il notaio sta lì anche per fare un po' il piccolo avvoltoio e ricordarci anche questo, giustamente, dico io. Però notaio, no, stavo pensando che per dirci tutto quello che dobbiamo sapere a proposito della regolarità, diciamo, dell'abitazione che abbiamo scelto, io magari devo interpellare il notaio avendo tutta la documentazione necessaria che mi racconti le caratteristiche di questa abitazione. Se mi interfaccio con un'agenzia immobiliare, non sempre gli agenti immobiliari sono disponibili, ci danno, come dire, tutte le rassicurazioni di carattere verbale, stai tranquillo, è a posto con le spese condominiali eccetera, non tutti, però insomma qualcuno qualche volta un po' ostinato, lo sappiamo in questo senso. Che cosa vi serve come documento per capire se questa casa è a posto, in conformità con tutte le indicazioni che ci ha detto prima? Cosa dobbiamo pretendere? Ecco, cosa dobbiamo portarvi? Allora, la copia dell'atto con cui chi oggi vuole vendere è diventato proprietario. Letto quell'atto, il notaio farà una serie di richieste integrative sulla documentazione, ma il documento principe è quello, perché consente di fare le misure. E l'agente immobiliare, per esempio, ce lo deve dare? Gli agenti immobiliari fanno un po' fatica a spogliarsi di questo documento per prima che la proposta sia formulata. In realtà, però, per formulare una proposta alla ragion veduta, un'occhiata preventiva va data. Siccome gli atti di compravendita sono atti pubblici e non c'è nessuna privacy, non c'è nessuna riservatezza, bisognerebbe insistere un po' per avere questi documenti prima di firmare qualsiasi carta. Senta, ma le capita di andare con qualche famiglia dall'agente immobiliare per poter dare una sbirciata su questi documenti se l'agente non vuole rilasciarli? In realtà poi basta avere i dati catastali dell'immobile, ecco, e ci arriviamo lo stesso. Esatto, quindi magari prenderli a mano, rubacchiarli dal documento sul tavolo dell'agente immobiliare. Si fa un po' più di fatica, ma il notaio arriva ad avere i documenti sempre. Allora, sono pronti gli ascoltatori per lei, notaio Roveda. Sono le 11.25, si è ancora 2-3 minuti di tempo prima della borsa, ce li abbiamo e sono pronti appunto Fabio dalla provincia di Verona, Lella da Genova. Sentiamo un po' che tipo di esperienza stanno vivendo. Fabio, benvenuto. Buongiorno. Sì, buongiorno a voi, grazie. Io ho comprato 10 anni fa e con l'agenzia siamo andati a vedere l'appartamento, molto bello, ci piaceva, grande, eccetera, e l'ho preso, però ci ha fatto firmare una carta dicendoci che era semplicemente la visualizzazione dell'appartamento. Invece qualche giorno dopo ci ha tirato fuori che avremmo firmato il discorso, come si può dire, che era terreno Pepe, era un'offerta, abbiamo consentito terreno Pepe piano di vita popolare. Ok, qua le organizzazioni di rappresentanza degli agenti immobiliari, adesso sono passati 10 anni e anche in quel mondo è successo di tutto, perché forse questi casi oggi non sarebbero più possibili. Però Fabio, detto questo, a lei poi la compravendita l'ha ultimata serenamente? No, noi abbiamo ultimato lo stesso perché ci interessava, quindi ho venduto quello che avevo e ho aggiunto un po' di mutuo su quello lì. Però il fatto è che ci ha fregato l'agenzia, in un certo senso, no, ci ha proprio fregato, perché non ci aveva detto che era terreno Pepe, se non l'avrei preso, perché io per disdire dal Pepe devo dare al comune 22.000 euro, 11.000 dal Pepe, piano di edilizia popolare. Fabio, esatto. Allora, grazie per la sua testimonianza. Beh, un caso vecchio, notaio Roveda, che ci suggerisce che cosa? Intanto attenzione al documento che ci fanno firmare, ma questo vale per ogni contesto naturalmente, che le informazioni che devono essere contenute, cioè è proprio uno di quei casi in cui la lettura dell'atto di acquisto prima della firma della proposta sarebbe stata utile, perché dalla lettura dell'atto d'acquisto sarebbe emerso con chiarezza che questa abitazione faceva parte di un piano di edilizia economica e popolare e quindi aveva dei limiti di commerciabilità e di utilizzabilità. Tra l'altro lui non ha terminato la sua storia, ma era una casa anche già abitata, forse Fabio neanche lo sapeva addirittura. Beh, oddio, com'è possibile, se dice che gli piaceva, la voleva, questo aspetto magari lo conosceva già e lui non ce l'ha detto. Detto questo, che si firmi un'abitazione, che si firmi un documento in cui, cos'è che lui ci ha detto, era una presa di visione dove si dichiarava che sarebbe andata a prendere visione dell'abitazione, invece era già addirittura una sorta di compromesso, mi pare. C'è stata una lettura forse un po' poco attenta. Esatto, quindi non facciamo i superficiali, facciamo attenzione, perché poi è facile dare tutta la responsabilità all'agente immobiliare, ma un po' è pure nostra. Comunque, insomma, a 10 anni di distanza il nostro ascoltatore presumibilmente abita con serenità in quella casa. Lella da Genova, benvenuta. Buongiorno a voi. Sì, a proposito delle agenzie immobiliari, io credo proprio che ce ne sarebbe da dire. E garantiscono molto, anzi pubblicano l'annuncio come immobile garantito citando la FIMA Milano, FIMA Torino, e poi non era garantito per niente. E anche su questo mi piacerebbe tanto sapere che cosa significa immobile garantito e se c'è un qualche una qualche veridicità con questa citazione. Ma le è successo qualcosa di specifico, Lella, o è un commento così? No, mi è successo di specifico, cioè il motivo principale della chiamata era un altro altrettanto importante, ma adesso sentendo gli altri ascoltatori quindi ha bisogno della consulenza del nostro notaio? Certo, dica. Allora si tratta di questo, avevo una prima casa in un altro comune, avevo acquistato una seconda casa in un altro comune e ho venduto la prima casa, mi sono trasferita nella seconda casa che è diventata abitazione principale, unica proprietà, e ho spostato la residenza, quindi era una piccola seconda casa che ho usato come appoggio temporaneo in attesa di trovare una prima casa da comprare in cui stabilirmi definitivamente. Al momento, nel momento in cui ho trovato questa ipotetica prima casa, ho scoperto che non posso beneficiare dell'acquisto di prima casa anche se ho questa unica proprietà, perché l'avevo acquistata come seconda casa e quindi sono soggetta ad una tassazione del 9 anziché del 2. Allora Lella, aspetti lì, ci ragioniamo un attimo perché è tardissimo, devo andare alla borsa, prepara tutta la sua consulenza il notaio Roveda per lei, fermatevi tutti lì, torniamo tra pochissimo. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Cuore e Denari. Allora, stiamo parlando di casa questa mattina, stiamo provando a formulare tutti i passaggi che ci portano dall'individuazione della casa che ci piace, che vorremmo acquistare, all'atto di compravendita finale. Poi naturalmente abbiamo aperto tutta una serie di parentesi e bivi, grazie anche alle testimonianze dei nostri ascoltatori. Con noi stamattina c'è il notaio Arrigo Roveda, presidente del Consiglio Notarile di Milano, e notaio naturalmente sa quante telefonate stanno arrivando da parte degli agenti immobiliari, perché naturalmente si coglie sempre tutto l'aspetto negativo di quello che diciamo. Abbiamo sentito un ascoltatore che ci ha raccontato di un caso problematico con un agente immobiliare e tutti si sentono presi di mira. Detto questo, in realtà sappiamo benissimo, adesso lo ascolteremo uno, ma perché cioè, è come per tutte le categorie, si parla di una cosa e si ascolta sempre l'aspetto, insomma, un pochino in chiaroscuro delle considerazioni generali che facciamo. È un mondo popolato di professionisti assolutamente eccellenti, io stessa lo dico, una delle mie migliori amiche da più di 25 anni è un agente immobiliare che adoro, che so che lavora con grande serietà. Detto questo, non è che faccio di tutta l'erba un fascio, anche fra i giornalisti ce ne sono appunto di bravi, meno bravi, più o meno corretti, per cui non sentitevi offesi. Abbiamo sentito il caso di un ascoltatore che ha avuto un problema e detto ciò abbiamo provato a capire con notaio Roveda quanto l'agente immobiliare può ostacolarci nella presa di visione preventiva dei documenti che ci servono per avere un'idea anche di quello che spenderemo, notaio, che mi pare legittimo. No, ma non è questione di ostacolare, non ostacolare tanto i documenti, è questione di mettere a disposizione magari con un po' più di anticipo i documenti per poter fare delle scelte consapevoli. Tra l'altro devo dire anche che la professionalità degli agenti immobiliari secondo me negli ultimi anni è decisamente cresciuta, cioè esatto, una categoria che... anche in virtù proprio delle difficoltà che il mercato immobiliare ha vissuto e quando della selezione. Ecco appunto, Dario da Roma, ci credo o no che siamo in buona fede, che nessuno vi vuol prendere di mira? Ah sì, buongiorno. No, ma non è questione, nessun dubbio sulla buona fede, ma in generale sull'utilità della vostra trasmissione, soprattutto parte denari, diciamo, perché parlate spesso di casa e il tema è tanto caro agli italiani. È caldo e attualissimo, anche perché insomma la crisi l'ha molto lentamente. Certo. Poi lo sappiamo bene, Dario, che pure voi vi confrontate con persone che non si sa mai quello che vogliono, eh? No, ma per carità, ma il nostro lavoro è faticoso soprattutto per quello, dal nostro punto di vista, perché mettiamo insieme il lato venditore e il lato acquirente. Infatti. Per cui dobbiamo essere mediatori, proprio nel senso di conciliare esigenze che nascono come opposte, certo, e poi devono arrivare a un obiettivo comune. Trattative che... La vera fatica è quella, intendo. Per cui è un lavoro delicato, abbiamo delle responsabilità di... come dire, su vari livelli che possono sfociare anche su questioni civili e penali, come sappiamo, nel senso che trattiamo una materia, trattiamo compravendite di beni che hanno valori molto molto molto consistenti per le famiglie che risparmiano con fatica. Dario, grazie mille, ci tenevo a dare la parola appunto per precisare che qua nessuno dà contro a nessuno. Notaio Roveda, allora, acquisto una casa, andiamo alla stipula del preliminare della compravendita. Che cos'è esattamente, quanto ci impegna questo passaggio? Diciamo che è il momento centrale, perché al momento del preliminare si stabiliscono tutti gli impegni e si assumono gli obblighi, ed è il momento decisivo, perché poi a rogito, se nel preliminare sono presi degli impegni che non si possono rispettare o non si sono fatti prendere degli impegni che sono invece importanti, c'è poco da fare. Quindi è il momento in cui si decidono le sorti dell'acquisto, ed è molto importante affidarsi fin da subito a qualcuno che protegga il nostro investimento in questo momento. Tra l'altro, il preliminare, se fatto per atto di notaio, può essere trascritto, il che vuol dire che prenota gli effetti della compravendita, facendo in modo che ipoteche che sopraggiungono, pignoramenti che sopraggiungono, doppie vendite, perché purtroppo c'è anche qualche venditore truffaldino, o dissesti economici dell'impresa che sta vendendo, sono inopponibili, e quindi si anticipa la protezione. È un momento di fondamentale importanza. Il preliminare di vendita o di compravendita non è il compromesso. Compromesso è l'espressione volgare di preliminare, ecco, di vendita, è l'espressione gergale. Diciamo che sono tre i momenti in cui si firma l'operazione parte. Quando si firma la proposta di acquisto e si consegna all'agente immobiliare, già quello è un momento importante, perché una volta che la proposta è accettata, l'impegno è preso. Nel preliminare si va nel dettaglio della trattativa, si dice se la scheda catastale deve essere rifatta, se deve essere presentata qualche domanda di concessione sanatoria. Si possono definire già delle condizioni da entrambe le parti. Certo, e fanno prendere degli impegni che devono essere eseguiti entro il rogito, estinguere il mutuo precedente. E a rogito invece il momento finale è quello che determina il trasferimento della proprietà, quello che corona il sogno dell'acquisto. Esatto. Senta, in fase di registrazione del contratto preliminare devono essere pagate determinate imposte, è corretto? Sì, c'è un'imposta fissa che si perde, che sono 200 euro più qualche accessorio di bollo. Ci sono delle imposte proporzionali, 0,5% sulle somme date a caparra e 3% sulle somme date ad acconto prezzo. Sono tutte a carico dell'acquirente queste? Sono di norma a carico dell'acquirente, di prassi, ma è una prassi così consolidata che possiamo dire che sono a carico dell'acquirente e sono recuperabili dall'imposta dovuta in sede di rogito. Chiarissimo. Attenzione che quando si danno tanti acconti prezzo, che scontano il 3%, si rischia di andare oltre alla somma dovuta al rogito, che invece è il 2% sulla rendita catastale, non sul prezzo. Quindi se non si sta attenti si rischia di pagare al preliminare delle somme che poi non possono essere recuperate. Senta, cosa succede nel caso in cui una delle due parti non rispetti gli impegni previsti dal preliminare? Quindi cominciamo subito a valutare gli intoppi possibili di questo processo di compravendita. Innanzitutto bisogna verificare se siano state previste delle somme a caparra confirmatoria. Se l'acquirente è inadempiente la perde, se il venditore è inadempiente deve restituire il doppio, ma l'acquirente ha anche la facoltà di non chiedere il doppio a caparra confirmatoria, ma di insistere per l'esecuzione, quindi chiedere al giudice che in esecuzione preliminare trasferisca la proprietà del bene che era stato promesso in vendita. Che cosa ci perde l'acquirente appunto nel caso in cui salti una trattativa in questo momento? Perde le somme date a caparra confirmatoria. Non può recuperarle in alcun modo. Non può recuperare, anzi rischia di perdere di più nel caso in cui il venditore provi che di aver ricevuto un danno non coperto dalla caparra. Senta notaio, secondo la sua esperienza in genere le trattative saltano più per colpa del possibile acquirente o del venditore? una volta che il contratto preliminare... che non le piacciono le statistiche, però... No, ma una volta che il contratto preliminare è firmato ed è fatto bene, di trattative ne saltano veramente poche. Il tasso di conflittualità sugli acquisti immobiliari in Italia è bassissimo. Davvero? Qui, sì, stiamo parlando dello 0,012%. Quindi è un mercato... che funziona. Meno male, insomma. Allora, 800 24 0024, il numero verde per le vostre domande. Fabio da Vicenza ci chiedeva, notaio Roveda, adesso sentiamo anche Lorenzo da Roma che sta aspettando da un pochino. Fabio vuole acquistare un appartamento, intestarlo a suo figlio che al momento è minorenne, anche se ha 17 anni, quindi ancora per poco, proprio come sua futura abitazione. Cosa può fare per pagare meno tasse possibili, ma naturalmente rispettando le leggi vigenti? Questo lo diamo per assodato, questo passaggio. Non è qua, le tasse sono quelle stabilite dalla legge. Immagino che il 17enne, del figlio non conta nulla. No, immagino che il 17enne non abbia altre case e che quindi questa operazione sia fatta per consentire di acquistare con le agevolazioni della prima casa. Se la intesta direttamente a lui, anche se non l'abita, questo ragazzo può fare un acquisto con il regime della prima casa. Può fare un acquisto della prima casa purché acquisti nel comune dove risiede. Fabio peraltro sta facendo la domanda a una persona che è molto nemica delle intestazioni ai minori. Ah, perché sono tanto carini questi ragazzi di 16-17 anni, ma non magari hanno consapevolezza di questo impegno che la famiglia magari si assume per e loro. E magari poi non crescendo non corrispondono alle nostre aspettative. Esatto. E quindi mettere tanti soldi, quindi fare un investimento importante affidandolo a una persona che non è ancora perfettamente matura, infatti, può non essere una buona Fabio idea. Fabio, lo mandi a studiare all'estero, va alla casa, ci pensiamo dopo. Lo sai che non abbiamo risposto a Lella da Genova? Si ricorda il caso dell'ascoltatrice precedente? Mi ricordo perfettamente il caso delle tre case. Mi sembra di aver capito che Lella avesse una casa in un comune. Era una prima casa. L'abbia venduta per comprare una casa di passaggio. Nel comune dove definitivamente che si è trasferita. È stata momentaneamente una seconda casa, ma secondo lei è diventata subito una prima casa. E probabilmente poi ha venduto entro l'anno dall'acquisto la sua prima casa. Questo e quindi, è il passaggio chiave. E quindi è potuta diventare la prima casa. A quel punto è andata a comprare la terza casa nello stesso comune. Per avere le agevolazioni bisogna dichiarare di non avere case di abitazione nello stesso comune dove si compra. Evidentemente lei, avendo già questa casa a ponte, comprando la terza non ha potuto avere le agevolazioni. Quindi nessuno l'ha in qualche maniera così trattata in maniera non corretta, la fiscalità funziona in questo modo. Mi pare di capire che tutto corrisponda al sistema fiscale. Benissimo. Ah, tra l'altro Fabio ci ringrazia per il suggerimento che abbiamo dato di non intestare la casa a suo magari figlio. Il figlio di Fabio ci ringrazierà di meno. Esatto, infatti, chissà, magari non anche ha sentito la trasmissione. Peraltro, a proposito di trasmissione, sì, si sbraccia Carmelo, dobbiamo sentire il traffico, ma ricordo per tutti coloro che amano le nostre faccine che siamo anche in diretta Facebook, per cui salutiamo i nostri amici che possono seguirci appunto live sulle social network. Che c'è il traffico, a tra poco. Gondrand Arte e Fiere, i professionisti per le vostre esposizioni. Scopri di più su gondrand.it. Vi presenta Cuore e Denari. Back home. Ci state scrivendo e telefonando in tanti, però noi sappiate che anche se non riusciremo mai a rispondere a tutti, la trasmissione termina fra 7 minuti circa, ma tutto il mondo dei notai d'Italia è sempre a nostra totale disposizione per rispondere in privato ai vostri quesiti. Notaio Roveda se la ride, ma in realtà anche lui ci aiuta tantissimo in privato, insieme a Piercarlo Mattea e tanti altri appunto in Italia, perché questo per dirvi quanto siano disponibili, non sono sempre così pronti invece a farvi firmare l'assegno appunto per la loro parcella. Allora, la casa dei nostri sogni, la compriamo, non la compriamo, tutti i passaggi da espletare per poter portare a termine questa operazione. Peraltro, notaio Roveda, ci rifà proprio l'ABC delle tasse più importanti che l'acquirente paga sull'acquisto della sua prima casa, proprio le tre principali, ricordiamole quali sono. Quelle che devono essere versate contestualmente al rogito, quindi per ricordare e ribadire che quello che si versa quel giorno non è tutta la vostra parcella, ma sono tutte tasse per lo Stato. Parliamo del caso in cui compri un privato. Sì. Il privato paga, andiamo al più semplice. Paga un'imposta di registro se compra da privato o paga l'IVA se compra da una società costruttrice. L'imposta di registro per la prima casa è il 2% sulla rendita catastale moltiplicata per 115,5. Ok. La tassa di registro sulla seconda casa è il 9% sulla rendita catastale moltiplicata per 126. L'IVA è un altro discorso e non si paga al notaio. Ci sono poi delle imposte fisse. Nel caso dell'IVA sono 3 imposte fisse da 200 euro. Nel caso di invece di acquisto da privato ci sono 2 imposte fisse da 50 euro e sono le imposte ipotecarie catastali, cioè quelle che si pagano per la trascrizione e quelle che si pagano per la voltura. Poi ci sono una serie di bolli. Ecco, a me piacerebbe che il legislatore facesse un'imposta unica, ecco, e ci vuole veramente poco. Esatto, infatti. E facesse una sola imposta per i trasferimenti immobiliari. E speriamo che ci stiano ad ascoltare. Insomma, tra l'altro c'è tutto anche questa bagarre che adesso lei avrà seguito sulla legge sulla concorrenza, generalmente lo strumento giusto per mettere dentro, no, anche questi provvedimenti, ma non la portano mai a casa questa legge. Detto questo, non è questa la trasmissione appunto per parlarne. Lorenzo da Roma, siamo da lei finalmente, benvenuto. Vi ho ascoltato via telefono, comunque ringrazio per i consigli in generale perché sono tutti utili. Allora, il mio caso è questo: 11 anni fa ho trovato una bella seconda casa in montagna a un prezzo molto conveniente. Ho detto che bello, andiamo a vedere, faccio tutte le proposte, arriviamo al preliminare con un notaio che non conoscevo perché non era della mia zona. Il notaio al momento del preliminare dice: benissimo, va tutto bene, però comprerete solo il 67% di questo immobile, perché chi vende ha solo il 67%. Ma pensi un po'. Però intanto già il preliminare l'aveva fatto Lorenzo. No, ci eravamo impegnati soltanto col venditore, con una piccola cosa scritta fra di noi, ma non aveva un grande valore legale, però insomma tutto si poteva discutere. Non aveva un grande valore legale, o ce l'ha o non ce l'ha Lorenzo? Vabbè, andiamo. Comunque il notaio ci disse chiaramente qual era la situazione, dice: se voi accettate questo dovete per il restante parte che non acquistate prenderla per come viene, visto che queste per il restante parte della proprietà risultava intestata a persone che stavano in Canada. Esatto. Lorenzo, è riuscito a comprarla o no? Io la casa l'ho comprata, mi sono comportato come totale proprietario in questi 11 anni, quello che chiedo al notaio è: secondo lei, passati 11 anni, chi vendeva ce l'aveva da 10 anni, posso andare verso un suo capione della parte restante? Rivendicare troppo un diritto. Troppo presto. Lorenzo, senta, ma questi proprietari di questo 30% dove stanno peraltro? Li hai mai conosciuti? No, non si sa proprio dove siano, io chiaramente non li ho cercati. Ma magari insomma sono proprietari a loro insaputa, come noti politici del passato dei quali ogni tanto si richiama, esatto, la memoria. Lorenzo, forse i nipoti di questi vivono in Nord America. Ma capitasse a me sta fortuna di essere proprietari di qualche pezzo di casa da qualche parte, notaio Roveda. Comunque insomma può rivendicare questo 30% perché nessuno ne rivendica il diritto? Tra un po' di tempo. E fra quanto? Tra un po' di tempo, perché il suo titolo d'acquisto è un titolo d'acquisto del 67%. Lui deve avere, insomma, c'è l'istituto dell'usucapione che consente di acquistare dopo un possesso incontrastato, incontestato per 20 anni. È un caso veramente raro, no? Nel senso però, che non mi è, non mi è, ha visto, non mi è mai capito, ha visto però stamattina. C'è e mi dicono che in certe zone d'Italia sia un caso molto frequente, quelle ma che sì, sono state, esatto, soggette a grandissima case di nonni che sono spezzettate fra mille nipoti, appunto, che non conoscono neanche di essere eredi appunto di queste porzioni di abitazioni. Gianni dalla provincia di Latina, benvenuto. Buongiorno. Ci dica. Senta, io ho fatto una proposta di acquisto di un immobile. Prezzo determinato, l'immobile predefinito, tutto a posto. Dopo 15 giorni il venditore mi dice: no, non la voglio più vendere. Sì. E dice: no, io non stavo bene con la testa, è sbagliato. Ha cambiato idea, può succedere, insomma. E quindi Gianni, lei? Adesso volevo sapere se posso fare, vale la pena fare una causa, perché in più ho lasciato un assegno di caparra pure in mano all'agenzia che... E non glielo dà, non glielo ridà indietro? Per il momento è rimasto sospeso tutto. Quindi è una situazione molto, molto recente, Gianni. Allora, no, vabbè, però almeno questo anticipo, questa caparra può rientrarne in... in titolarità, Gianni, notaio. Questo sicuramente, ma mi sembra che il nostro ascoltatore voglia invece la casa. Ah. Allora, quello che non ho capito è se questa proposta... Lei ha firmato una proposta, ma il proprietario ha firmato l'accettazione? Sì, ha accettato. Ah. Allora, se la proposta è fatta bene e contiene tutti gli elementi essenziali, il contratto si è concluso, quindi lei ha diritto ad avere questa casa al prezzo che ha concordato. Se non ottiene la firma del venditore sul rogito, può chiedere al giudice, sempre io non ho letto questo contratto e quindi bisogna sempre, quando non si guardano i documenti, avere dei dubbi, comunque se la proposta è fatta bene può andare dal giudice e ottenere il trasferimento della Gianni, proprietà. Insomma, deve volerla proprio tanto questa abitazione per essere disposta ad imbarcarsi anche in un'operazione del genere, ma ce ne sarà qualcun'altra bella ed interessante. Magari non era il destino che comprasse questa, io dico sempre così, se qualcosa si è messo di traverso evidentemente il suo destino è abitare da un'altra parte. Notaio Roveda, sa in quanti ci hanno scritto e telefonato? Adesso la aspetta un bel pomeriggio di lavoro per noi? Ne è consapevole? Se vuole andare su Facebook a rispondere anche ai nostri ascoltatori, loro sono tutti contenti, guardi, anzi li saluti dalle nostre non telecamerine. Non sono più social, ma scatenerò l'inferno. I miei amici perché possono come dare Russell risposta. Crowe, grazie, come gladiatore, grazie notaio Roveda, l'aspettiamo presto per un'altra puntata. Molto volentieri, buona grazie casa a voi. A tutti, noi ci sentiamo lunedì, buon weekend.